Il cuculo evangelico. Esiste uccello con una certa particolarità rispetto agli altri volatili. È noto per la sua peculiare caratteristica, il parassitismo di cova. Esso consiste nel deporre il proprio uovo all'interno del nido di altri uccelli. La femmina depone un solo uovo in diversi nidi estranei, da aprile in poi, per un totale di circa 15-20. Le uova somigliano molto a quelle della specie ospite. Alla schiusa, che di norma avviene dopo circa 12 giorni, il piccolo del cuculo, con l'aiuto del dorso, si sbarazza delle altre uova presenti nel nido e non ancora schiuse, presentandosi quindi nel nido come l'unico ospite. I genitori adottivi sono ingannati da questo comportamento e nutrono il cuculo come se fosse un proprio nidiaceo, per 2 a 3 settimane. Questo uccello parassitario dal curioso modo di agire si chiama cuculo. Meno male che gli uccelli non ragionano. Diversamente, in poco tempo lo sfruttatore sarebbe stato eliminato. Purtroppo anche nell'abito evangelico esistono degli esempi di cuculi e la cosa degna di nota è che, nonostante gli uomini sappiano e aborriscano il parassitismo, nonostante ci sia una branca della biologia che studia i parassiti e i loro effetti negli animali e nell'uomo, di uomini parassiti ne esistono ancora, e sono più che mai vivi e vegeti. Non lo dico per sentito dire, o perché l'ho letto da qualche parte, ma perché ne sono a conoscenza. Non mi sono noti i particolari dell'esistenza da lui, condotta prima della sua scelta di vivere per Dio. Ma per certo l'espressione estasiata notata sul folto di un religioso, da lui casualmente incontrato, lo ha letteralmente fulminato, inducendolo, da quel giorno, a cercare Dio, a viver per lui e a ricercare la comunione con tutti quelli che hanno posto fede in Dio. Iniziò a frequentare ogni domenica le riunioni dei cristiani, e dove vi fosse un'assemblea o chiesa, vi presenziava a turni con il più caloroso trasporto. Diceva del continuo di non appartenere a nessuna chiesa locale, ma solo a quella universale, e, con questa visione, partecipava ai culti di ogni assemblea, insegnando e predicando che le chiese di una città fossero unite in comunione, evitando di guardare le varie divisioni causate dalla diversa interpretazione della scrittura. Non aveva seguito nessun corso di teologia, trovava quasi inutile lo studio, non la lettura, della Bibbia, perché riteneva che lo Spirito Santo fosse in grado di guidare ogni credente anche senza una adeguata conoscenza della Bibbia. Un'opinione alla quale rispondevo affermando che se lo Spirito Santo fa a meno della nostra intelligenza, quanto farà a meno della nostra ignoranza? Con una tale visione riguardante la Chiesa, questo cuculo evangelico ogni tanto arrivava a frequentare l'assemblea alla quale appartengo, e predicava con ardore un messaggio tratto dalla parola di Dio, godeva della comunione fraterna, prendeva elogi e incoraggiamenti e poi tornava al suo nido tutto soddisfatto di aver lasciato la chiesa edificata. Intanto, andando qua e là, prendeva visione della situazione spirituale di ogni nido dove gli fosse stato possibile posare il suo uovo di vedute. Fu così che, in un momento di incertezza riguardo alla conduzione e alle guide di questa chiesa, pensarono bene di proporgli di unirsi a loro nella gestione della comunità dei credenti. Lui subito rifiutò, ovviamente. Tuttavia, in seguito, pensò bene di accettare, ma non prima di aver dettato una condizione: di non essere in un primo tempo un semplice membro della Chiesa, ma di diventare da subito un conduttore della Chiesa, cioè anziano. Lui, che non era mai stato né membro di una Chiesa, e neppure conduttore. Una proposta a mio parere assurda e insensata, perché in nessun posto e in nessuna situazione esiste un simile comportamento. Chi accetterebbe di eleggere come primario di un grande e rinomato ospedale qualcuno il quale non abbia precedentemente avuto mansioni direttive, almeno in una piccola struttura ospedaliera? A chi si permetterà di fare una puntura endovenosa se prima non ha mai fatto una puntura intramuscolare? Per condurre bene e saggiamente una comunità, occorre aver accumulato esperienze di vario genere all'interno della vita comunitaria stessa. Occorre prima osservare per imparare il comportamento dei conduttori ai quali si è sottomessi. Come Così come occorre conoscere tutte le persone appartenenti all'assemblea che si frequenta, occorre aver gioito e sofferto con la Chiesa per vedere la reazione di ogni membro. Infine, ma non per ultimo, occorre grande pazienza e sopportazione di ogni genere. Prima di servire alla guida di una Chiesa, è soprattutto indispensabile aver già fatto esperienza di servizio come semplice membro di Chiesa, perché è molto più facile prestare servizio dalla poltrona del comando, piuttosto che dallo sgabello del servo. Troppi dittatori hanno iniziato dicendo di accettare il ruolo del comando per servire. Nessun dittatore si è mai presentato come tale. Perciò, se è vero che le intenzioni non si possono giudicare almeno, una certa umiltà nel seguire la prassi comune può servire. Proprio per questo, nel corso dell'elezione per la sua candidatura a conduttore, mi opposi. Purtroppo, fui l'unico a esprimere un parere contrario, mentre altri alzarono la voce solo per contraddirmi. Ecco che il cuculo aveva posato il suo uovo. Fino a quel giorno il cuculo non aveva fatto nulla di pratico per il nido. Per molti anni, con fatica e lacrime, altri avevano lavorato alla costruzione del nido, il quale, se ancora dopo 50 anni esisteva, era perché aveva resistito a tante questioni interne. Ma ora il cuculo aveva deposto il suo uovo, un uovo molto simile agli altri. Nessuno se ne era accorto, neppure chi conduceva l'assemblea, anzi inesperto e incompetente. Il conduttore in carica lo aveva incoraggiato a prendere subito il posto di comando. L'uovo si schiuse, non nacque una serpe e neppure un elefante. Le idee del pennuto erano molto simili a quelle già esistenti nella comunità, ma pian piano con il dorso egli iniziò a scantonare certi concetti. Innanzitutto bisognava scardinare il principio di conduzione. Così, anziché essere la Chiesa a decidere per le varie questioni, lui meno, ovviamente assieme agli altri, meno accettò il principio, già velatamente serpeggiante, in virtù del quale i conduttori avevano il diritto di decidere a proprio parere, anche contro il parere espresso dalla maggioranza nella comunità. Il primo passo era fatto. La Chiesa, come sempre, supinamente tacque. Ben presto, il nuovo cuculo lanciò un'altra idea, costruita a fatica nel tempo all'interno della Chiesa. Bisognava avere comunione con tutti quelli che invocano Dio, senza tener conto delle varie posizioni dottrinali. L'importante era essere volatili. L'importante era volare assieme. Quello che contava era andare d'accordo, cantare e lodare insieme. Nel nido, costruito a fatica da più di 50 anni, perdurava la visione di una comunione con tutti i gruppi cristiani, anche che ogni nido di ogni specie di animali fosse da ritenersi diverso, per cui il nido di un passero non può essere come quello di un'aquila. Ogni volantico testamento ILE sta bene nel suo nido. E solo chi non ha mai avuto un nido, passero o PIO come il cuculo, può stare bene in qualsiasi nido. Ha una condizione però, che nel posto occupato dal cuculo non stiano altri uccelli indipendenti. Al cuculo il Nuovo Testamento interessa il nido, non gli altri uccelli. Al cuculo interessa dove poter vivere, non interessa che altri uccelli a loro volta vivano. Il cuculo mostra atteggiamenti comuni a tutti i volatili, che ingannano coloro da cui è stato covato, ma in seguito uccide i figli dei legittimi proprietari del nido. Il cuculo è spietato anche se a sua insaputa. Il cuculo è un ingrato, animato dal solo interesse di vedere realizzati i propri obiettivi. Non sa perché, ma ogni altro diverso volatile del nido, del quale ormai si è appropriato abusivamente, per il cuculo è un disturbo, un intralcio, un nemico. O lui, o io, pensa il cuculo. E dato che io devo vivere, pensa il cuculo, lui non può esistere. Così, man mano che il cuculo evangelico cresceva in autorità, tagliava la lingua a chi osasse contraddire le sue idee. Non dava un sonoro calcio agli altri uccelli, perché questo non rientrava nei canoni religiosi da lui adottati e avrebbe mostrato chiaramente l'appartenenza alla sua razza. Ma avvalendosi di una buona visita pastorale in casa dei membri comunitari, con una serena conversazione, celatamente mirata a correggere le eventuali idee sbagliate di alcuni fratelli, Il cuculo modellava sistematicamente ogni volatile, secondo la sua razza. Un lavoro lento ma sistematico, pur di raggiungere l'obiettivo di far muovere le ali a tutti gli uccelli nello stesso modo, simile al suo. Purtroppo per il cuculo vi era un uccellino ancora animato di coraggio per cantare e volare, cantare. E volare liberamente. Non individualismo, ma indipendenza. Questo il cuculo non lo poteva permettere. Tutti possono volare come vogliono, dice il cuculo. Tutti possono fischiettare come vogliono. Ma nel mio nido no, la libertà c'è, ma non nella mia giurisdizione. Io sono tollerante e vado d'accordo con tutti, continua a sostenere il cuculo, ma divento intollerante con chi non la pensa come me. O segui il mio indirizzo o te ne vai, sì. Se questo uccellino tollerava il cuculo, era perché aveva compreso che ormai l'usurpatore si era già costruito il suo nido dove regnare incontrastato, e perciò era inutile opporsi. Per amore, questo uccellino lasciava correre. Nonostante questo, il cuculo lo voleva eliminare, perché questo uccellino, indipendente, volava diversamente. Non solo deve stare fuori dal mio nido, pensava il cuculo, ma non deve neppure pensare diversamente da me. Almeno, non nel mio nido. Mania di potere. Mentalità cattolico-romana. Come fare, pensa il cuculo, se lo sbatto fuori perdo la faccia. A dire agli altri uccelli di togliere di mezzo il passero che aveva covato con amore tutti gli altri, aveva paura. Così, l'unico modo era porgere ancora il dorso e isolarlo dagli altri. Non di faccia, ma di dorso. Come sempre, l'uccellino nato nel nido madre svolgeva ancora fedelmente un suo compito a pro degli altri fratelli, ma al cuculo evangelico questo non andava. E così, con un buon lavoro di persuasione, fece vedere agli altri pennuti che questo uccellino non era in armonia con il suo progetto, che il lavoro di questo uccellino non collaborava all'assesto di tutta la nuova impalcatura o nuovo nido che il cuculo si era creato. Il cuculo aveva cambiato molte cose, vi era ora un nido completamente rinnovato, una nuova situazione, alla quale ci si aspettava che anche questo uccellino si adeguasse. Doveva fischiare e volare diversamente da come aveva sempre fatto. Doveva collaborare come lui ordinava. Solo che il termine collaborazione, usato in riferimento a questo episodio, mi porta alla mente quel patrigno, irritato con la giovane figlia della moglie, da lui molestata sessualmente. Perché la bambina non collaborava. Il cuculo voleva, non tanto la collaborazione, del resto, abbondantemente prestata dall'uccellino, quanto l'ubbidienza cieca alle sue vedute e un'adesione incondizionata al suo indirizzo spirituale. Ormai il cuculo era diventato talmente grande che nel suo nido non c'era posto per altri uccelli il pensiero dei quali non fosse completamente sottomesso al suo. Così, con una spinta opportuna e evangelica ben congeniata, ha tolto per sempre dal nido, precedentemente usurpato, l'unico uccellino rimasto vivo, libero nella mente, nella parola che potesse infastidirlo. L'unico uccellino, perché l'assemblea nel giorno della sua espulsione piombò in un silenzio tombale, nessuno aprì il becco, Isaia 10:14. Tutti erano come pietrificati. L'uccellino nato nel nido, dopo 50 anni, ne è uscito con orgoglio e pieno di gioia, almeno per due motivi. Prima di tutto, se è stato spinto via è perché non assomiglia al cuculo parassita, poi, perché è cosciente di trovarsi nel nido di Gesù Cristo, che ha come anziano o guida non un cuculo umano, ma Cristo stesso, a quale deve rendere ragione. Meglio essere cacciati dai cuculi usurpatori che da Gesù Cristo. Gennaio 2012. Contributo. Verità più amore. Un binomio inseparabile, meno GBU Jonathan Lamb. Ellero,